roba tibetana, no? Perché c'è anche la tradizione tibetana della befana, che però non ha i capelli lunghi, grigi e il nasone, è pelata, certo. E non usa la scopa, ma il battacchio. Però più o meno la stessa cosa, sono una questione di lunghezza alla fine, no? Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. Un saluto da Drago. Buona Befana a tutti. Vabbè, buona Epifania a tutti. Vabbè, uguale, no? Sì, Befana, vabbè, Epifania. Dai, non cominciare subito a innervosirti. No, comunque, no, dai, eccoci qua. Arrivati al traguardo, sì, dell'Epifania, che, sì, come si sa, pone fine al periodo delle vacanze natalizie. No, aspetta, aspetta, Drago, oggi è venerdì. E quindi? E quindi questa Befana funziona da ponte verso il weekend. Perché Befana, vabbè, okay, venerdì, sì, fa il weekend. Vabbè, ma weekend è festa sempre. Diciamo che le feste extra finiscono oggi, cioè. Oggi la gente non ha lavorato, non c'è nessuno negli uffici, sì, le macchine a Milano non possono circolare. Eh, perché... no, perché no, area C, area C. Euro zero, non so, area C. Quindi anche tutte le autoradio sono spente, insomma, la solita tragica situazione di pubblico dei giorni festivi. Ti manca un po' il fiato, Drago, E sono un po' teso, sì, perché penso all'Audi Radio, no? Ma come l'Audi Radio? Pensavo lo smog. Pensiero è sempre fisso all'Audi Radio. Ma dico, non esiste l'Audi Radio, lo Drago. Lo dici tu, cioè, c'è l'Audi Radio clandestino, Kappa. Ma come la, ma cosa stai dicendo? Non ci credo, ma come no? Ma non ci credo, esiste, no? Esiste anche l'Auditel clandestina. Si scommette pure, lo sai, c'è, cioè, Cristiano Doni scommette sullo share di Telenova e vince regolarmente, trucca, ma, anche, ma vabbè, ma scusa, capito? Ma scusa, in ogni caso, che ci ascolti o no per radio, ormai è un dettaglio, ma no? Un dettaglio? Ma perché c'è la tecnologia, c'è il podcast, c'è, quindi, lo smartphone, guarda, sì, c'è lo smartphone. No, lascialo lì, per carità. Se tu ti connetti sempre lamentato su Radio 24, ma no, ma perché me l'hai regalato tu, adesso, non però di... se adesso tu ti connetti tipo su Radio 24, con lo smartphone, una specie di cortocircuito. Ma no, perché siamo contemporaneamente, ma c'è un piccolo delay, no? Tra la messa in onda e... Una, Marte, è quella cosa lì praticamente. Però se tu per esempio fai, non so, vedi, vedi, per esempio, hai queste cose bellissime, sì, no? Certo, c'hai, ciao, Chiedo Asilo T4, è uno smartphone, Drago, e quindi, e la quindi gente non lo so, la tecnologia ti risolve il problema dell'Auditel, stai lì a vedere quanti contatti hai avuto su Facebook, quanti mi piace, e quello fa il tuo Auditel, Audi Radio, sì, scaricano tutto. Poi magari dimenticano, ma tutti una chiavetta, capito? Cosa sta andando qua? Sta suonando lo, so, lo smartphone, Drago. Cioè, io la mia paura è che le nostre puntate, no? Sì. La gente faccia gli zipponi di MP3. Ma perché paura? E poi li mettono sulla chiavetta e se li dimenticano, capito? Ma perché se li dimenticano? Ma poi è la tecnologia, no? Ho capito che è la tecnologia. Si fa così, tecnologia che tu, Drago, non capisci perché non hai lo smartphone. E sai perché non la capisci? Perché? Sei ignorante. Vabbè, sarò ignorante, però non dico buona Befana come te. Vabbè, dico cosa... buona Epifania, che è più serio, ma cosa più vuol corretto dire? E quindi anche, sì, più... Sì, ma cosa c'è che non va in buona Befana, più corretto? Ma no, niente, Drago, però è un, po' da, è un po' da infanti. Vabbè, buona, ma siamo Befana, all'asilo, la, ho Befana, capito, è una cosa, però, vabbè, ci manca ancora che telefoni le tue amiche un po' avanti con l'età dicendo loro buon onomastico o cose, ma del genere. Fatto stamattina, Ma non ne dubitavo. Ma Drago, ma tu come la festeggi l'Epifania? Cosa fai? Oro, incenso e mirra? Magari, no? Cammelli in casa? No. Allora, a me i magi hanno portato antinfiammatorio, antibiotico e cortisone. Non so se vabbè, con una dieta simile forse ti farebbe bene un po' di yogurt, yogurt. Drago, sì, per la flora batterica, sai perché? La foresta batterica. Ma vabbè, quello che è, insomma. Kappa, se continuiamo a parlare a vanvera, anche l'Audi Radio clandestino smette di rilevarci e finiamo in fondo alle classifiche di tutti i tempi e ci dice. Vabbè, ma l'importante è scommettere, no? Scommettiamo sul flop di Chiedo Asilo e diventiamo finalmente ricchi. Anzi, tu cerca di incespicarti un po', no? E ora, bambini, ricreazione! Ah, Befana! Ioris! Che bello che è! Uè, Ioris! Uè, Alberto, ciao! Ciao! Ciao, come stai? Beh, insomma... Stai bene? Stiamo finendo le vacanze, adesso è la Befana. Come finite le vacanze? Mo' incominciano le vacanze, la Befana si apre i regali! Ma no, arriva la calza, è arrivata la sua volta calza. Ma quale calza? Cioccolatini, mandarini... No, Alberto, a me sono arrivati i regali! Ma come regali? Ah, perché tu compi gli anni il 6 gennaio. No, perché io apro i regali il giorno da Befana, il 6. Usanza indigena? No, quale indigena? L'usanza, la tradizione... Ehi, che... indigena, no? È che io parlo forbito e tu... Ma scusa, ma tu quando li apri i regali? A Natale. A Natale nascono su bambini, mica si aprono i regali. I regali si aprono il 6 gennaio. Vabbè, comunque voi li aprite così, tutto il mondo li aprono a Natale e chiudiamola lì. Allora dimmi cosa ti ha regalato. Tante cose, Alberto. Mi hanno regalato i cassetti, i ping pong, i giochi, i videogiochi. Ma eravate poveri. Albe, guarda che Natale è per tutti! Ma se non avete i soldi? È per i belli, è per i brutti, è per i ricchi e per i poveri, per tutti! Sì, adesso è... Mi hanno regalato pure un tablet! Il? Un tablet! Il telefonino quello fatto un po' a piatto, quello grande, grosso! Quelli tipo smartphone? Sì! Più evoluti, i touchpad, no? Quelli che muovi col polpastrello. Quelli che posso mandarti a Betty il materiale, ti posso mandare tutte le fotografie, ci possiamo vedere pure in diretta. Io e te, ti chiamo Alberto, dove stai? Allora, il materiale, questa storia del materiale che ogni tanto tiri fuori. Non cercare di mettermi dentro qualche storia illegale, eh? Quale materiale? Il materiale delle cose che stiamo facendo. Se io sto giocando a pallone e ti devo dire a Betty sto giocando, tu mi dici non ci credo, attacchi il telefonino e ti faccio vedere dove sono. Ma quale materiale? Noi siamo bambini! Alberto, noi siamo una società, come te lo devo dire? Già l'altra volta abbiamo parlato di questa cosa. Quante volte dobbiamo ripeterci? E allora? E allora, ti ho detto, col tablet ti posso mandare il materiale, ti posso fare il dire e disfare, te la posso costruire una cosa e te la posso mandare, tu la guardi e me la rimandi. Ma cosa guardo io? Allora, prima di tutto, sta roba del materiale... O lo chiariamo una volta per tutte o se no lasciamola stare. Sì. Se mi tiri dentro delle storie illegali con il materiale. È uno. In secundis, ma se il mio smartphone ce l'hai tu, io cosa devo vedere? Allora facciamo così. Va bene la società, mi ridai lo smartphone, poi ormai c'è il tablet. Io non ce l'ho più tuo telefonino, a me me l'ha regalato mio fratello il tablet. Vabbè, ce l'avrai nel cassetto, in cameretta, lo tiri fuori e me lo porti, dai. No, no, io quello l'ho confezionato e ce l'ho regalato a mio fratello a Natale. E com'è tuo fratello? A mio fratello, scusi, quello era mio. Mica era tuo, tu me l'avevi data a me. Ma io l'avevo data, a parte che la società, quindi io è mio e tuo. Il testo incomodo chi è? Appunto. Poi qual è, tuo fratello qual è? Quello dei 50 euro? Sì, è sempre per cambiare, questo qui ha 39 anni, cosa fa? Sì, ho capito, ma però a te quando ti serve mio fratello e dici, chiama tuo fratello. E va bene, non c'ha 39 anni. E noi c'è 50 euro e ho 39 anni. E presto ogni cosa che lo chiamo si va a pagare, cos'è? Non è che Madre Teresa di Calcutta. Tiri sempre in ballo tuo fratello per sta roba di 50 euro. Ma adesso è finita, eh? Tu e tuo fratello, non mi nominare più tuo fratello. Almeno quello di 39 anni. Gli altri, specifici. E magari posso anche darti retta. Vabbè, Alberto, dai. Tanto oggi è un giorno bellissimo, è la Befana. È la Befana. È la Befana, si aprono i regali. Ma quali regali? E poi è una vecchiaccia la Befana. È bellissimo, quanto mai? Che stai dicendo? Sotto un ponte, però dici, mamma, corda mamma, che non deve preoccuparsi, che piangi ogni giorno lacrime della Madonna. E io ci dico che sto bene. Mamma! E mamma? Mamma. Che era io? Cos'è? Un der Haifisch der Razzene? Mackie Messa, Bertolt Brecht, Kurt Weill e tutte quelle robe lì. È roba di befane tedesche. Robe culturali che qui veramente anche italiane, Radio 24. Se guardi Milva, la cantava anche Milva? Sì, un po' sì, befana Milva. Quando Milva era ancora viva, sì, è vero che. Come? No, ma no. Ah, no. Ma anche Milva? Non lo so.